io adesso ho la parola al Nuzio Verne e non al Conte, che dopo di lui potrà intervenire Paolo Pertini. Innanzitutto è importante, quindi ringrazio sia Alfonso che Fausto che sono venuti a trovarci, Paolo, bene, insomma, ci hanno portato la solidarietà in questa assemblea, un'assemblea importante, un'assemblea che innanzitutto ci ha scelto il fatto che quello che noi abbiamo costruito in questi anni, Action, in particolare è sotto un attacco giudiziario senza precedenti dal punto di vista della storia, anche della lotta della casa dentro questa città. Questa assemblea vuole mandare un segnale politico nei versi anche di Carmine, Fabiano e Vittorio che stanno carcerati a Bologna. Questo tipo di Europa che ci hanno preparato, che ci hanno voluto far digerire, un'Europa blindata ai movimenti, blindata alle lotte sociali in cui un picchetto diventa sequestro di persona, in cui occupare una casa, il diritto all'abitare dalla magistratura viene difeso solamente come diritto alla proprietà privata e non come diritto all'abitare. Ecco, ancora una volta la magistratura, che è un potere forte, ma che comunque dovrebbe essere un potere anche democratico. Ecco, anche su questo noi abbiamo visto l'altra volta, c'è stata un'assemblea, ci sono venute un sacco di sollecitazioni, un sacco di segnali che cercavano di far vedere come gli stessi diritti costituzionali stanno dalla nostra parte, ma come sappiamo purtroppo chi non ha capacità di contrattare non può essere rappresentato, deve violare necessariamente la legalità per riuscire a fermare un proprio diritto. È una cosa che non ci piace, io penso agli anni passati, no? Prima eravamo sovversivi di scelta, no? E quindi adesso siamo sovversivi di fatto, perché stiamo portando sostanzialmente una situazione, un terreno che è avanzato, perché stiamo affermando i nuovi diritti per persone che non figurano da nessuna parte, perché la concertazione sta pure tutti settori della società, cioè se tu sei invisibile non c'è grossa contrattuale, la tua domanda di libertà, il tuo diritto, come si afferma, chi è che si fa carico di dare uno sconto come dica sta domanda? Noi questo abbiamo fatto e per questo ci stanno attaccando, ma questa cosa non è che ci stupisce, per cui la Costituzione che emerge prima sta saltando le forme, adesso per fare diciamo, cioè, però ci sono altri problemi, altre contraddizioni sul livello più maturo anche delle contraddizioni che una società come quella capitalista. Ecco, rispetto a questo quella che è la Costituzione diventa la pena. Ecco, allora, se noi per fare queste lotte sostanzialmente veniamo attaccati, noi queste lotte ce le dimentichiamo. Ce le dimentichiamo e vogliamo che tutta la sinistra dà anche una domanda, cioè, se faccia anche una domanda, cioè, come si difendono le lotte sociali dentro questo paese? Come si rappresentano tutti quegli invisibili che non hanno nessuna forza di contrattazione sociale e che non esistono? Non solo perché sono invisibili, perché non esistono, non c'è nessuna possibilità di affermare i tuoi diritti, perché non c'è nessuno che ti rappresenta. Quindi gli autoorganismi, in maniera diretta, ecco lì che sostanzialmente viene attaccato, viene accerchiato e viene chiuso. Ecco, questo dovrebbe essere anche l'inizio di un percorso, perché noi siamo pure preoccupati, perché pensiamo che in prospettiva con un governo di centro-sinistra che ha visto in particolare, io ti auspico che venga un governo di centro-sinistra, immagino un governo di centro-sinistra anche con un governo non che può garantire più libertà democratica ai movimenti, però se è il punto di riferimento è Bologna, siamo a carissimo unito. Milioni di persone che cercavano di costruire uno spazio politico tutti insieme, oggi i movimenti diventano il diciamo il peggiore nemico dell'amministrazione bolognese. Guardate quello che sta succedendo, la fine è lunga, cioè su quello che sarà anche, no? Quello che succederà quando vincerà il centro di destra. Se noi abbiamo la forza e le gambe sociali per far pesare quello che non siamo, per far pesare i nostri diritti, per lottare contro l'ingiustizia, purtroppo le denunce, le parole non bastano, se viene mobilità la gente, all'inizio anche in termini, all'inizio anche minoritari, che però sta per esprimere una tendenza maggioritaria che c'è dentro la società, lo stato complessivo d'animo che c'è sta in mezzo ai settori subalterni. Ecco, penso che da questo punto di vista anche il progresso, cioè io mi ricordo, per esempio forse è stato attaccato, no? Perché praticamente è cascato il governo Prodi, no? Purtroppo non è cascato il governo Prodi, non si è fermata mai con la parte che ha solitato la coppia al fatto che sia. E su questo dovremmo riflettere. Cioè, perché poi se noi vogliamo effettivamente costruire, cioè il PC aveva una sua forza, no? Una sua forza dominante nel caso di stare, abbiamo di mobilità di milioni di uomini, chiaramente c'è una sua strategia, però quello bloccare il paese. Noi se questi vanno a far comunicare, a Roma lo volevo fare perché ci stanno provando e ci stanno facendo il culo, per cui la messo. Ma dentro al paese, come facciamo noi a non capitolare di fronte alle politiche, no, del grande capitale, dei grandi politici, delle oligarchie dominanti? Oggi questo, hai visto, questi se non andranno vanno a diventare segreto di Stato, guardare che ha fatto un delinquente politico, questi sono dei delinquenti. Che ci hanno voluto propinare un'Europa blindata ai movimenti, un'Europa blindata alle lotte sociali, cui chi prova a comprarsi è venduto a pure l'elemento criminale giudiziario. L'hanno fatto a Milano, l'hanno fatto a Napoli, l'hanno fatto ovunque. Beh, noi cerchiamo di bloccare in qua, e comunque la minima è l'elemento importante, perché noi un po' come dissero i zapatisti, no? Li abbiamo provati tutti, alla fine siamo insulti. Noi non siamo a questa città, alla fine ne riusci a portare i bombe, se ne può mettere nella condizione che faccia che ce l'ha tutto e basta passare. Continuano a difendere, è la dignità fondamentale, perché a parte la libertà bisogna essere uniti, poi siamo arrivando uno, non fa più di tempo a una società come questa, e non è che a me mi piace, né mi piace andare in galera e né mi piace tra eroi, bravo è il popolo che non ha bisogno di eroi, diceva qualcuno, però se comunque avremmo voluto essere gentili non abbiamo potuto essere, perché scende da un sacco del bosco, e allora grazie.